vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 9 giugno, il sole in regione è sorto alle 5:16 e tramonterà alle 20:57. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Viticoltura sostenibile, tema del convegno centrale della 87esima fiera dei vini di Butrio, la più antica d'Italia, che si conclude oggi. Sono sempre di più le aziende, anche del Friuli Venezia Giulia, interessate al vino a impatto ambientale ridotto, una scelta che ora vogliono percorrere anche interi territori. Nella rubrica dedicata al bio capiremo perché non basta dire no pesticidi in agricoltura, una rinuncia che comporterebbe una revisione complessiva della gestione delle colture. Nuovo capitolo poi delle vicende della fattoria sociale e dei suoi abitanti. Per l'angolo botanico spazio ad una pianta grassa e carnivora, mentre nella rubrica dedicata alla sicurezza alimentare, dopo il frigorifero scopriremo come conservare gli alimenti in congelatore. Per la ricetta impareremo a cucinare i colacci, le ciambelle della festa. L'andamento dei mercati agricoli, le previsioni meteo per la settimana con una nota di climatologia locale e il proverbio friulano chiuderanno la puntata. Viticoltura sostenibile in Friuli Venezia Giulia, promossa inizialmente da un progetto nazionale del Ministero dell'Ambiente che si chiama Viva. Anche l'ERSA, ente di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia, è impegnata per dare un volto più consapevole ai vigneti del territorio, e poi esiste da alcuni anni il progetto Viticoltura Sostenibile FVG, che ha lo scopo di diffondere ed applicare questi principi. Partner del progetto è DESAM, Rete Vini Sostenibili, di cui è presidente Paolo Criscione, a cui chiediamo di darci una definizione brevissima di viticoltura sostenibile. Che cos'è? Viticoltura sostenibile non è semplicemente un produrre vino con un minore impatto ambientale, è un cambio di mentalità, vuol dire avere una consapevolezza e la capacità di misurarsi, capire quali sono i propri impatti sull'ambiente e sulla società e migliorarsi continuamente. Quante sono le aziende che in Friuli Venezia Giulia hanno scelto questa strada? Attualmente ci sono 5 aziende che sono state certificate, ma ce ne sono molte altre che hanno aderito già al disciplinare. 2 aziende sono le aziende pilota del Ministero dell'Ambiente, che sono Venica in Venica, Principi di Porcia, e successivamente l'Ufficio Superiore, che ha aderito al progetto Viticoltura Sostenibile Friuli Venezia Giulia. Ci sono dei parametri per misurare questa sostenibilità? Ci sono 4 indicatori dati dal disciplinare Viva, che sono l'indicatore aria, cioè la carbon footprint, cioè il nostro contributo sull'effetto serra, sui cambiamenti climatici, l'indicatore acqua, cioè la water footprint, cioè l'utilizzo corretto delle risorse acqua, ma anche tutte le criticità legate agli scarichi o contaminazione delle acque di falda. L'indicatore vigneto, che è l'indicatore più tipico della viticoltura, per cui che è legato all'utilizzo dei fitofarmaci, per cui la difesa o la fertilizzazione. E poi c'è l'indicatore territorio, che è quello che è più complesso e che unisce i pilastri della sostenibilità, cioè quello economico, sociale e quello ambientale. Le aziende che partecipano al progetto, quali modifiche hanno fatto concretamente, per esempio, nei loro processi di produzione? Le aziende hanno capito con gli indicatori quali sono i propri pesi sull'ambiente, per cui per esempio facendo una carbon footprint si scopre che l'impatto maggiore di una bottiglia di vino è proprio la bottiglia. Pertanto per esempio hanno cambiato il peso della bottiglia del vino, minimizzando la produzione del vetro, per cui anche del vetro da smaltire e da trasportare in giro per il mondo. Allo stesso modo per cui hanno lavorato sull'energia, la maggior parte delle aziende producono energie rinnovabili attraverso pannelli fotovoltaici o attraverso la produzione da biogas. Proteggono la biodiversità facendo progetti di protezione della microfauna del suolo, oppure piantando siepi a bordo filare, mantenendo il vigneto in orbito. Che ruolo possono avere in questo processo di sostenibilità le viti resistenti brevettate anche in Friuli Venezia Giulia? Dal punto di vista ambientale sicuramente un vitigno resistente permette molti meno trattamenti. Il problema è che naturalmente la produzione del vino attualmente non è riconosciuta dalle DOP. Un'azienda vitivinicola sostenibile e certificata è anche una garanzia per il consumatore? Sicuramente sì, perché il processo di certificazione è una cosa molto seria e prevede l'avallo almeno di 2 livelli, cioè un ente terzo accreditato che valida i dati, per cui verifica la veridicità e la correttezza dei calcoli, e inoltre vi è un avallo finale da parte di un organismo pubblico che è il Ministero dell'Ambiente. Tutti i calcoli vengono fatti inoltre da consulenti formati dal Ministero dell'Ambiente e dall'Università Cattolica di Piacenza, come quelli della rete Vini Sostenibili che rappresento. Che cosa cambia per il territorio che sceglie o per le aziende che sceglie? scelgono di fare questo percorso di sostenibilità in vitivinicoltura? Cambia sicuramente una mentalità, cambia ovviamente un approccio a fare agricoltura che è diverso, cioè poter analizzare e capire quali sono i nostri impatti e ad agire in maniera sito specifico per poterli migliorare. Se lo facciamo in maniera territoriale abbiamo una forza in più, perché l'Unione sicuramente fa la forza. È una strada che possono scegliere solo le singole aziende o che anche un territorio può pensare di percorrere? È una strada che possono scegliere le aziende, ma anche un territorio. È stata presentata giusto l'idea progettuale del Comune di Butrio alla Fiera dei Vini, che prevede un'adesione territoriale al disciplinare. Su altri esempi che ci sono stati, per esempio in Sicilia con Sustain o anche in Piemonte con i Colli Tortonesi, che prevedono un'adesione collettiva del territorio verso la sostenibilità sotto una regia di un organismo centrale. Pesticidi sì, pesticidi no, questo è l'arduo dilemma. Se ne parla tanto in questi giorni e sentiamo cosa ne pensa Cristina Micheloni, che ci inquadra il problema dal suo osservatorio, quello dell'agricoltura biologica. Pesticidi o fitofarmaci, ora direi lasciamo stare la diatriba nominalistica. Chiaramente dall'agricoltura biologica non possiamo che dire che a noi i pesticidi o i fitofarmaci di sintesi non servono, non interessano e non vogliamo utilizzarli. Questo è uno dei punti dell'agricoltura biologica. Due cose, vediamo se riesco a fare un ragionamento circolare su questo. Due cose che vanno sottolineate sono relative al fatto che si può fare agricoltura senza i pesticidi, però non si può pretendere di farlo in un sistema agricolo come quello attuale. Non è così facile, anzi è impossibile, mantenere la monocoltura o i sistemi così semplificati e dall'altro lato non usare i pesticidi di sintesi, perché non si riesce a produrre un bel niente, gli agricoltori non fanno reddito. Quindi, fantastico, basta con l'uso dei pesticidi, ma mettiamo in piedi un piano graduale che parta da altre cose, per esempio la fertilità del suolo, e questo mi consente di ricollegarmi all'altro tema che mi sta a cuore. Va bene, cerchiamo di eliminare i pesticidi, i fitofarmaci, che sono quelli che magari ci preoccupano di più, che sono un po' più di moda, diciamo così, però anche dovessimo riuscire a farne a meno, non avremmo risolto molti dei problemi ambientali legati all'agricoltura, che sono la perdita di fertilità, la perdita di biodiversità, che non è solo legata all'uso dei fitofarmaci, è legata per esempio al fatto che non si fanno le rotazioni colturali, che si fanno colture anche in aree dove non sarebbero vocate. Quindi, ovviamente meno pesticidi possiamo, anzi facciamone a meno il più presto possibile, ma non pensiamo di farlo in maniera così semplicistica, e facciamolo rispondendo anche alle altre sfide che l'agricoltura e la società a cui ci chiede di dare una risposta, che sono le altre risorse naturali che sono connesse all'agricoltura. Quindi partiamo dal terreno, da lì forse riusciremo, anche se lavoriamo bene lì riusciamo anche a fare meno dei pesticidi. Fare il contrario è andare incontro sicuramente a insoddisfazione. Continua la saga dell'affidamento di maiali e oche sotto sequestro al nostro Stefano Montello, che però si trova a passare in men che non si dica dalla fattoria ai rapporti con il tribunale. Dopo la fuga cominciò un'odissea. Un'odissea di telefonate, appuntamenti negati, appuntamenti saltati, di dialoghi frasordi, dialoghi surreali tra me e le autorità. Io, senta, ho qui questi animali da 2 anni, ho finito i miei fondi a disposizione per il loro mantenimento. Come facciamo? Loro... Non lo chieda a noi. Quando lei ha accettato di fare l'affidatario giudiziale, sapeva a quello a cui andava incontro. Io? No, che non lo sapevo. Voi non avete neppure accennato al fatto che avete dovuto tenermele per anni e avete minimizzato sui tempi del processo. E loro? Sono lunghi i tempi dei processi per gli umani, si figuri quelli per gli animali. E poi, mi scusi, anche chi si prende in affido un cane o un cavallo è nella sua stessa posizione. E io? No. Mi scusi lei, non è vero affatto, perché chi ha un cane può andarci a passeggio e chi ha un cavallo lo può montare. Ma che faccio io? Vado a passeggio con le oche e monto i maiali? E loro? Se non riesce più a gestirli, si trovi qualcuno disposto a prendere in affido. Ed io? Ma chi vuole che si prenda la responsabilità di 20 animali, fra cui 5 cinghiali che mangiano come cinghiali? Sono un santo votato a pietà per il sottoscritto. E loro? Definitivamente. Beh, lo trovi allora. Il Moloch statale stava mostrando tutte le sue multiformi maschere. Esasperato, decisi di scrivere direttamente al giudice. Io un giudice in vita mia non l'avevo mai visto. Non credevo neppure fossero persone in carne e ossa. Le avevo sempre immaginati con un misto di terrore e di sdegno, e non mi ero mai riuscito di andare oltre pagina 30 nella lettura del processo di Kafka, senza farmi prendere da un panico incontrollabile. Fatto sta che scrissi un fax. in procura chiedendo che mi fosse risarcito ciò che avevo speso per il mantenimento degli animali che avevo in affido da 2 anni, o che mi fosse almeno riconosciuto un indennizzo in denaro per il lavoro svolto con cura, visto che gli animali stavano in buona salute. In conclusione, dissi in sostanza: prendete qua 200 euro, firmatevi una carta che gli animali sono miei e non parliamone più. Dai, procura, su. Apriti cielo. Il giudice si indispettì e me lo fece anche sapere. Dovevo ritirare quell'oscena proposta, anche alla luce del fatto che la procura non mercanteggia con nessuno. Beh, un po' così mi spaventai. Non volevo finire in galera per colpa di 5 maiale, che poi si finisce sempre per equivocare e la reputazione poi ne risente. Pensai, io e le mie maialesse finiremo sotto una tonnellata di altri faldoni polverosi. Poco male, mi rincuorai da solo. Ormai a quelle bestiole mi ero davvero affezionato. Tra le piante carnivore che crescono spontanee in Friuli Venezia Giulia, la più comune è la pinguicola. A raccontarcela è Antonino Danelutto. Quella dal fiore bianco è la pinguicola alpina. Il nome del genere deriva dal latino pinguis, cioè grasso, per il caratteristico aspetto delle foglie grassette, tanto che le è stato attribuito anche il nome volgare di erba unta bianca. È una pianta che predilige gli ambienti umidi, le paludi, i pascoli alpini pionieri, generalmente su calcare. Tuttavia, pur essendo una specie montano-alpina, la pinguicola cresce anche a quote basse, come nella zona pedemontana, e perfino in quella delle nostre risorgive, dove, considerata relittica, si è adattata grazie al microclima creato dalle acque rinascenti, che sono dotate di un alto tasso di alcalinità, e non superando nell'arco dell'anno i 3 gradi di escursione termica, mantengono una temperatura media di 13 gradi e mezzo. È una pianta erbacea perenne, alta fino a 10-15 cm, ha foglie carnose di colore giallastro o verde pallido, tutte raccolte alla base, sessili, lanceolate, di sopra ghiandoloso-vischiose, con bordi arrotolati verso l'alto. L'unico fiore sullo scapo sottile e gracile fa la sua comparsa già ad aprile-maggio. Ha la corolla biancolatea con un breve sperone rivolto verso il basso. Il labbro inferiore, chiazzato di giallo, è trilobo, in quanto formato da 3 petali saldati fra di loro, mentre il labbro superiore è bilobo. In fitoterapia le proprietà terapeutiche delle foglie, raccolte da maggio a luglio, non sono state scientificamente accertate. Tuttavia il loro impiego non viene escluso dalla medicina popolare, che le usa soprattutto contro la pertosse. Alti dosaggi sono purgativi e provocano il vomito. Il meccanismo di cattura di piccoli insetti da parte della pinguicola rientra nella strategia delle trappole adesive. Le foglie rilucenti attirano gli insetti che vi restano appiccicati e diventano preda delle numerosissime e minutissime ghiandole digestive, distribuite soprattutto in prossimità dei bordi. Queste secernono un succo proteolitico in grado di demolire in meno di 3 giorni le parti digeribili delle piccole prede e quindi di assorbirle. In questo modo la pianta trae dalle proteine degli insetti l'azoto di cui necessita, che purtroppo è carente nel terreno in cui vive. Terza e ultima puntata oggi con Claudia Fontanini dell'Ufficio Qualità del Consorzio FTB per la rubrica Qualità e Sicurezza sulle nostre tavole, dedicata alla catena del freddo e al ruolo del consumatore. Oggi ci parla dell'uso del congelatore. Il congelatore è un ottimo alleato per conservare gli alimenti per lunghi periodi. Va però ricordato che non effettua un'azione di bonifica, ma semplicemente blocca la crescita dei microrganismi se la temperatura è mantenuta costante. I prodotti congelati e surgelati hanno una scadenza che va controllata e rispettata. Per il congelamento domestico degli alimenti è consigliabile dividerli in porzioni per facilitare la penetrazione del freddo e permettere poi di scongelare quantità adeguate al consumo. Vanno messi in sacchetti o altro contenitore da freezer, chiusi dopo aver fatto uscire l'aria ed etichettati con data di congelamento e tipo di prodotto. Alcuni alimenti non sono adatti al congelamento domestico, in particolare frutta e verdura ricchi di acqua. Congelandoli nel nostro freezer si formano grossi cristalli di ghiaccio che danneggiano le pareti cellulari. Per questo, una volta scongelati, i prodotti presentano una struttura alterata. Lo scongelamento deve essere fatto in frigorifero, nel forno a microonde nelle posizioni di scongelamento o rapidamente mediante cottura o riscaldamento. Non è opportuno scongelare prodotti a temperatura ambiente o a bagno in acqua. Dopo lo scongelamento, i microrganismi sono pronti a moltiplicarsi, non appena la temperatura lo consente. Si consiglia perciò di consumare i prodotti scongelati in tempi rapidi, di cuocerli subito e di non ricongelarli nuovamente da crudi. Se invece sono stati cotti adeguatamente, possono essere ricongelati in sicurezza. Con il forno a microonde si può scongelare più rapidamente rispetto a quanto avviene nel frigorifero. Il cibo così scongelato deve essere cotto e consumato immediatamente, perché la temperatura critica di 4 gradi può essere superata in più punti degli alimenti trattati con il microonde, consentendo quindi la moltiplicazione dei batteri presenti. Nel corso del decongelamento bisogna ruotare e riposizionare con frequenza i cibi, separare il più possibile le parti di prodotto per consentire un'azione più rapida e omogenea delle microonde, rimuovere man mano le parti già decongelate per evitare un aumento eccessivo della temperatura. I colacci della Cresima sono le ciambelle tradizionali anche di tanti altri dì di festa, le protagoniste della ricetta di Roberto Zottar. Per i cristiani la festa di Pentecoste ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, mentre per gli ebrei il Shavuot, o Pentecoste, ricorda il giorno in cui sul monte Sinai Dio diede a Mosè le tavole della legge. Nel Friuli la festa era detta Pasche di Rosis, perché nelle chiese si gettavano dall'alto petali di fiori per ricordare il miracolo delle lingue di fuoco. Ma era anche la data tradizionale della cresima dei ragazzi che all'uscita dalla chiesa ricevevano in dono i tipici colas, colaz o colacci. Il padrino o la madrina, se avevano possibilità economiche adeguate, facevano dono al cresimato dell'orologio, ma anche, talvolta soltanto, dei colas. Sono ciambelle di pasta dolce o di altri tipi, ottenuto facendo dei filoncini semplici o a treccia chiusi a cerchio con un diametro da 20 a 50 centimetri. Fuori dalla chiesa c'era il venditore ambulante, il colassar, che li vendeva anche decorati con glassi di zucchero e piccoli bomboni. Questi dolci sono molto diffusi nell'area mediterranea, rotondi, senza principio né fine, simbolo dell'infinito, sono stati spesso associati alle cerimonie rituali e religiose, quali battesimi, cresimi e matrimoni. I colas, se non lo stesso dolce, sono certamente parenti stretti dei bussolai veneziani e anche il detto lo ricorda chi noga santoli noga bussolai e il bussola o buzzolato deriva dal tardo latino buccellatum che era una sorta di galletta biscotto per i soldati mentre indicazioni medievali poi lo indicano anche come un pan dolce che i contadini offrivano ai padroni il giorno di Natale. In Friuli erano in voga già prima del 1500 ed erano talmente popolari che un proclama cinquecentesco limitava il numero dei colas che il patrino poteva donare al figlioccio. I colas da sope erano invece dolcetti nunziali che si inzuppavano nel vino, mentre se realizzati con una treccia di pasta in una corona più grande erano un regalo beneaugurante per gli sposi, analogamente alla tradizione boema degli Hochzeit Golatschen. I colas infatti sono cugini dei Golatschen boemi, di cui troviamo traccia nei recettari austriaci o anche nei manoscritti triestini di cucina, anche se i Golatschen sono previsti anche in una versione ripiena di ricotto o frutta. Il nome colas potrebbe derivare dallo sloveno kolac, ciambella, infatti colò è la ruota. Per realizzarli, amalgamate con un litro di latte, 500 g di zucchero, 150 g di burro, un cucchiaino di sale, una busta di lievito per dolci, la buccia grattugiata di un limone e tanta farina quanto basta per rendere l'impasto morbido e asciutto. Formate dei bastoncini e quindi dei cerchi di diverso diametro anche a treccia. Pennellate con l'uovo e volendo decorate con piccolissimi confetti colorati. Da freddi, i colas vanno legati tra loro con nastrini colorati. Buon appetito. Ed ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole alla Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,40 e 16,60 euro al quintale IVA esclusa e la soia tra 32,40 e 32,90. Non quotati invece il frumento e l'orzo. Rispetto a un anno fa il prezzo del mais è diminuito di 1,10 euro, mentre la soia è calata di 4,40 euro al quintale. Segni di miglioramento nel mercato dei bovini a macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,45 e 2,95 euro al chilo IVA esclusa e quelli di seconda tra 1,80 e 2,40. Mercato leggermente attivo anche nel settore dei vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 6,90 e 7,30 euro al chilo, IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,80 e 5,30, i frisoni tra 1,80 e 2,10 e i bruni tra 1,70 e 1,90. Timidi accenni di ripresa pure nel settore suinicolo, con il valore della tonzola di 30 kg franco partenza fissato a 3,11 euro il chilo, IVA esclusa, e i grassi da macello a 1,22. Domanda sostenuta nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 5,40 e 5,95 euro al chilo, quello di 4-6 mesi tra 6,80 e 7,20, con un marchio di qualità tra 7,70 e 8 euro, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,70 e 8,10. Il latte naturale di vacca, franco stalla, compresa refrigerazione, è quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 37,50 centesimi il litro, più premi qualità e IVA. Infine, scambi deboli nel comparto degli avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 1,14 e 1,16 euro il chilo, i tacchini maschi tra 1,45 e 1,47, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,35 e 2,39, i conigli oltre 2 kg e mezzo quotati dal CUM di Verona tra 1,97 e 2,03, mentre il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 12,60 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. L'inizio di giugno ha visto una svolta radicale di tempo in regione, con l'inizio davvero puntuale dell'estate meteorologica, che ricordiamo anticipa di 20 giorni quella astronomica. In pianura si sono raggiunti ben presto i 30 gradi di temperatura massima e il mare, da valori di 15 gradi, tra i più freddi per fine maggio, si è ben presto portato oltre i 22 e quindi ben al di sopra della norma per la prima decade di giugno. L'unico episodio meteorologicamente significativo della settimana passata è stato il singolo temporale piuttosto forte di martedì pomeriggio. Sviluppatosi sulla zona del Monte Matajuro al confine con la Slovenia, si è poi spostato lentamente verso ovest, portando piogge intense e anche grandinate sulla fascia collinare udinese. Nel corso del pomeriggio si è poi mosso verso sud-ovest, lambendo Udine e raggiungendo il Codroipese e attenuandosi gradualmente, con piogge ben più moderate. Se la prima decade del mese che si chiuderà domani avrà quindi temperature già superiori alla media climatica del periodo, la prossima settimana vedrà un'accentuazione del caldo, come vedremo tra poco nelle previsioni. Ecco che, come spesso è successo negli ultimi 20 anni, le ondate estive di calore tendono a presentarsi già a giugno e non più solo a luglio e agosto. Anche domani quindi, e vediamo le previsioni, troveremo cielo sereno, poi qualche nube pomeridiana in montagna potrebbe dar luogo a qualche isolato rovescio temporale di calore. Farà caldo, con temperature massime ben oltre i 30 gradi in pianura, poco al di sotto sulla costa, dove la brezza eserciterà un effetto mitigatore, pur introducendo umidità e quindi afa. Martedì i temporali pomeridiani, oltre che in montagna, potrebbero presentarsi più tardi anche su alcune zone della pianura, ma la previsione è ancora in parte incerta. Continuerà comunque a fare caldo. Le previsioni non sono molto diverse tra mercoledì e giovedì. Sereno su pianura e costa, qualche temporale pomeridiano sui monti e forse anche su qualche zona di pianura, specie mercoledì. Il caldo si dovrebbe attenuare, ma solo leggermente. Verso il fine settimana prossimo non si intravedono variazioni sostanziali. Saremo sempre al confine tra l'anticiclone caldo mediterraneo e il flusso perturbato atlantico, per cui dovrebbe prevalere il bel tempo, specie verso il mare, e l'instabilità pomeridiana verso i monti. E il caldo sembra continuare. Invitiamo gli ascoltatori a seguire gli aggiornamenti quotidiani di Osmer ARPA, in quanto la attendibilità è ancora piuttosto bassa. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. A San Barnabà la uva in flore va, ovvero per il giorno di San Barnabà, l'11 giugno, l'uva va in fiore. Coordinamento tecnico di Daniela Postu. Il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.